come è accentuato. Devi premerlo, quando lo premi si nasconde all'internamente, capito? Non so, ce l'ha lateralmente su. Come è un po' vecchiotto questo apparato, no? Anni 70. Avanti Antonio, buonasera, ti abbiamo chiamato e... Scappa, era impegnato, dai. Sono ritornato, dai. Pagava. Stavo parlando di apparecchi antichi, di apparecchi che c'è Tore lì. Vero? Sì. Arrivederino! Torellino, sei ritornato a bombo. Non arrivi, Cantù. Scappa, ma non mi arrivi nemmeno questo a me, occhi. E reciproca la cosa. Non è che arrivi forte e forte, Torellino è un po' in condizione precaria. Beh, sicuramente, già. Io vi saluto e me ne vado su, mi guardo un po' di televisione e poi mi faccio la nanna. Dai, tutto ce la riscoltiamo tutta domani, dai. Buonanotte a tutti, ciao, ciao. Ciao Gigi, buonanotte, ci ha fatto piacere, dai, che ti sei trattenuto un po' stasera. Gava, gava, avanti a te. Allora, c'è Vulca, dai, ce la riscoltiamo, papà. Ehi, buonanotte a partire Antonello e Sogni d'Oro. Yeah, ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Tom, ciao. Gava, gava, comunque ti stavo dicendo, Antonè, c'è un microfono lì che si adegua molto a quell'apparato lì. A quale? A quel vecchio che ti ho detto io? No, a quello che c'hai, al Galaxy. Ehi, quelli fini, pare, quelli da tavola. No, da palmo. No, da palmo. E si adegua un bel. Si adegua un bel. Proprio per quell'apparato lì. Che ne sono in vendita a Sassari? No, già sì, ce l'ho io uno. Canto lo casa, se lo dai. Io ci mettiamo d'accordo. Lo faccio per aiutarti e non perché mi interessa vendere, non me ne ha fottuta di vendere. Però ci devi mettere lo spinotto non c'è. Lo spinotto non c'è. Perché l'avevo adattato un altro baracchino e poi avevo tolto lo spinotto perché... Tanto non stavo più usando, mi si era provato il baracchino e lo spinotto l'ho tolto da lì. Vabbè, allora... Vabbè, io ne ho esce a vedere. Vabbè, lo spinotto lo posso staccare. Tanto ce ne ho un vecchio microfono della Midland, tanto lo stesso attacco, lo spinotto ce l'ho. Sì, vabbè, ma... non lo devi staccare un altro microfono, ti conviene comprarlo da parte, lo spinotto lo vendono da GBC, lo vendono da Fusar. Allora va bene, dimmi tu come vuoi, dimmi tu un prezzo, quello che è. No, non ti dico niente qua, lo vediamo, lo vedi, prima o poi, se ti piace, nuovo. Non c'è problema, ci mettiamo d'accordo, non è un problema, non costerà 1.000 euro alla fin fine. Una cosa, 1.000 euro. È una battuta, nel senso, ma ci vuole anche la batteria quello, giustamente, no? Va alimentato. Prego, sul 21. Cappa. Perfetto, quando vuoi, guarda, ci sentiamo nel caso fine settimana, se non ti disturbo mi avvicino direttamente lì e vediamo un po'. Non c'è problema. Prima che vuole a tavolo, se ti interessa. E sono per a tavolo, sai, nella posizione in cui sono io, come ho sistemato la mia stazione, diciamo, io ho una piccola poltroncina, mi devo sedere comodo e rilassarmi, no? E mi sdraio, dunque avendolo quello da tavolo, devo metterlo sulle ginocchia, non è che sia il massimo. Kappa. Vabbè, questo qui comunque c'ha tutto, c'ha amplificazione, c'ha l'eco, la parte digitale, se vuoi puoi chiudere quello dell'apparato e usare quello lì. Perché quello da tavolo stai dicendo tu, quello da tavolo, non quello palmare. No, quello palmare. Va bene. Lo guardo un pochettino e vediamo. Ora non faccio altro che comprare lo spinotto e quello legale e basta. Tu lo sai fare? No, per saltare, per fare i punti di saldatura me la cavo tranquillamente, non ne ho avuto mai problemi per quello, non c'è nessun problema. Non faccio altro che smontare quello che sto usando adesso, che è originale. Apro e controllo il colore dei fili, giustamente dove sono collegati in quei quattro punti, e boh, non è un problema. Beh, se sono uguali, sì. Se sono diversi, i fili con i colori. Tocca avere tentativa alla fine, dai, già sono solo quattro. E costa una fesseria, costa. Ma a quattro ce lo devo avere anch'io, glielo do, a quattro ce lo devo avere anch'io. Va con una fesseria già. Secondo te, diciamo, è proprio ideale per quello, perché tu lo usavi nel tuo, giusto? Io ne ho provato parecchio nel mio, ma quello è quello che si adatta di più, ti fa la voce proprio limpida, perfetta. Diciamo che te l'amplifica anche giustamente, ti dà questa particolarità in più alla fine. Ecco, certo. Va bene, se vuoi non c'è problema, non c'è problema. Prego. Avanti. Tappa, mi sentite, sente Antonio Grober, in cui se vi stavo ascoltando. E comunque l'idea di fare il collegamento dal nido dell'aquila, guarda che io non l'ho presa sotto gamba, non è uno scherzo, lo faremo. Gappa, non c'è problema, però. Ho una mezza idea, Ho una mezza idea, perché domani dobbiamo organizzare con degli amici una sorpresa, o meglio per sabato, la dobbiamo organizzare, domani è sabato, domani, per un matrimonio dobbiamo organizzare una specie di scritta che è sospesa da un pallone aerostatico. Se riuscissimo a fissare un'antenna da lì, attraverso il pallone aerostatico, questo qua infatti lo recupera, è un pallone di 1,80 m di diametro, si gonfia con l'elio e si porta su in quota. Se riuscissimo a tirare sull'antenna e tirarla tipo palloncino, lo sai quanto riceverebbe meglio? E come la tiri su? Elio, lo gonfi, intanto abbiamo questa bombola d'elio, io ce l'ho incomodato per 2 mesi, 3 mesi. Tu cosa fai? Prendi il pallone aerostatico, lo gonfi e contiene quasi 1 m³ d'aria, adesso bisogna vedere quanto riesci a tirare su. Se tira su almeno 10 kg l'antenna ne pesa, fai 3-4, in più ci metti 3 kg che peserà il cavo e lo ancori, no, tu gli metti un cavo, lo tiri su col cavo stesso dell'antenna e la fai arrivare tipo a 20 metri, 20 metri più il posto dove ci troviamo, figurati. Ma non c'è bisogno nemmeno di fare quel gioco lì. Guarda, da dove siamo, sta tranquillo che io ti sto dicendo che ho collegato il Nuorese da lì, ho parlato Santiago Sì, Radio 5 dalla macchina, ho collegato la Turchia, ho parlato, vabbè, in propagazione, col continente, eccetera, eccetera. Infatti facciamo così, ci riuniamo tipo una decina di persone, una ventina di persone, pochi ma buoni, tant'è vero che Antonio Bombolo non lo portiamo e vediamo cosa si può fare, dai. Sta scherzando. Ti portiamo. Tu devi fornire il gas però, mi. Pagato. Stavo piantando nel letto. Che fa? Antonio Bombo come fa a fare bella figura? Lo so, già lo so che se non ci dici tu non ne facciamo, l'hai detto tu pure anche. Ma gamba, è che sto confrenato, se no sono inventore fatto. Marocco! Avanti! Buonasera, Giuseppe da quella parte di Evole che mi super cordializza, KKK, oppure KKK, dipende da voi. Ciao Giuseppe, ben sentita cordialità. Ti piace questo microfono, Antone? È bella storia, eh. È lo stesso che ti sto dicendo, eh. Fagli fare un altro passaggio, dai, così me l'ascolto ben bene. Buonasera da parte di Antonello. Ciao Giuseppe, sentita. Devo venire a mangiare io? Positivo. Se si è abbassato a 9,5. Sai cosa dico? così. Ma dove sta andando oggi? Sta tornando. A scappa. Non posso dire, l'avevo sentito prima, l'avevo sentito fortissimo. E si è abbassato, sicuramente è il posto che è zona d'ombra. Scappa, perché prima l'avevo sentito molto molto forte. Anche su 9.20, poi è sceso a 9, poi è sceso di nuovo a 7, e comunque mantiene sempre un buon segnale. Sicuramente fa l'importanza il microfono, sbaglio? E tutto, un po' tutto, il microfono, l'antenna, tutto quanto, ha molta importanza. Vedi, però ho notato una cosa, noi giustamente abbiamo delle antenne differenti e quando tu gli hai, diciamo, letto il suo segnale era uguale al mio la lettura, eppure diciamo abbiamo antenne diverse. Ma siamo anche in zone diverse. Sì, e tu non lo metti in dubbio, quello chiaramente al corso si è molto più vicino confronto a me, a lui linea d'aria, però alla fin fine il segnale, come tu l'hai letto, era perfettamente uguale qua a casa. Ma non da tutte le parti, capito? Un posto può essere uguale, ma per dire c'è un punto dove arrivi più forte tu, un punto dove arrivo più forte io, oppure chi ricevi meglio tu, che ricevo meglio io, dipende. Dipende sempre dal varco che c'è per arrivare all'altra antenna. Eccolo, già è vero. No, da 27 gradi ti rompe le palle, nel senso che devi sempre cercare di migliorare. Solitamente tutti fanno lo sbaglio di prendere roba magari più scarsa e poi piano piano andare avanti, invece dovresti prendere direttamente la roba buona, una volta che ce l'hai non la cambi più, hai fatto la spesa per tutto, capito? Diciamo che chi ha l'esperienza sa già che cosa prendere, chi non sa cosa prendere prende quello che gli capita e poi magari si accorge che c'è qualcosa che è migliore, eccetera, eccetera, la compra e spende un bel dinaro. Io guarda, ti dico, da quando sto modulando, se avessi risparmiato quei soldi, non ti dico che sono stato miliardario, ma almeno milionario sì. E all'anima, no, è la verità, ho avuto sempre i piccoli apparati, adesso c'ho questo, già sono abbastanza contento, ma la verità non ho mai speso cifre, diciamo, per come ti hai parlato tu, e forse io sono una persona che non sono così tanto esigente, per dire, poi giustamente uno quando c'è la passione è totalmente diverso, ma non è che abbia mai speso così tanti soldi io, Beh, ma io sto parlando del giro degli anni, non è che li ho spesi in una volta. Comunque io ho preso anche apparati che costano 470 euro, 450, quindi così risparmio in fretta e subito. E quello sì, è solo che carico stai usando? Sto usando l'S980. Non ce l'ho presente. Cercalo su internet, Magnum S980. Alla fine sono quegli apparati che, diciamo, metti in mano, diciamo, le grandezze quanto un ARA 68, diciamo, questi modelli qua. Ma sono un po' più grandi, dai. Guardalo su internet, non c'era internet. E Giuseppe? Antonio? Quello. non ti ho detto che tu non lo puoi fare, io ti ho detto quello che ho fatto io, punto. Siamo, io potrei farlo, però non lo faccio, perché non mi interessa comprarle, punto. Ma a me mi interessava, Anto, io l'ho appassionato e lo sono tuttora. Ma prima ero molto più preso e ti dico la verità. Ma prima era proprio una competizione, la maglia della potenza, si facevano le gare di notte, si era alle 7 di mattina, tutti modulavano, cercavano di arrivare chi arrivava più lontano, i segnali più forti, questa e quella, e c'erano cose che ti prendevano forte. Ma chi se già mi piace pure a me, chissà mania, la verità, non lo nego, se avrei potuto, Giulia. Sento, prima avevano i propri regali, quando c'era Badisi, Urbia, grandi bus, c'erano le gare proprio, tutti attaccavano, facevano, si bucavano le antenne collineari dalla potenza che usavano. Bella storia, Grande. A me già, chi se, cioè, più che altro, più che il baracchino, a me piacciono i cigoni, la mania della posta. Tu baracchino può fare anche questo qua per dire, ma i cigoni già mi piacciono. A me piace tutto, mi piace anche l'apparato, per me non deve essere solo un apparato forte che imbatte un meghi sui dazi, mi piace, deve piacermi anche l'estetica dell'apparato, se no non andiamo d'accordo. Per me deve andare bene e essere bello d'estetica, che piace a me, dai, che quando lo vedo davanti ci sia una cosa che mi piace. Io vedo sono un pegnone diverso, già. Io invece la penso, a meno che non sia proprio un gesso, un cazzo, il salone non lo voglio manco vedere. Secondo me conta poco, secondo me conta più le prestazioni e tutte cose, hai capito? A me ci devono essere tutti i due, sia la prestazione che l'estetica. Poi, vabbè, ognuno ha i suoi punti di vista. Come diceva con mia coccia, con io lo parlando, devi già dire, devi prendere tutti i visi, io vengo tutto lì, dopo tu non so come ti vedi. Vabbè, ognuno ha la sua preferenza, Cioè, cazzo, tu la pensi una maniera, io non condivido la sua maniera, cioè, poi ognuno ha la sua preferenza, io preferisco una cosa, tu ne preferisci un'altra. Certo. Se no il mondo sarebbe monotono. Avanti Grode. Antonio Grode, oppure vediamo un po' chi c'è. Antonello. Dimmi tutto. Copiata, cosa si faceva prima? Prima si stava anche sino alle 7 di mattina modulando. Ma se la verità quanto io l'avrei voluto fare, solo che alla fine no, non c'è mai nessuno. Però a parte gli scherzi, io da un po' di tempo stavo pensando, no? Quei pochi che sono rimasti, noi alla 27, sarebbe bello tutti insieme, bisogna adesso organizzare qualcosa in modo da sensibilizzare i ragazzi di adesso a comprarsi gli apparati, no? Per modulare. Mi sarebbe piaciuto fare questa scena tutti insieme. Lo so, ma alla fin fine con internet si scopre tutto, si scoprono tutti i mondi, se uno gira, naviga, scopre anche quello, non ti preoccupare, vede gli apparati, si interessa, se uno c'ha l'interesse, io l'apparato l'ho scoperto così, senza che nessuno mi pubblicizzasse niente. E quello non lo metto in dubbio, anch'io la mia prima concessione è stata il 23-10 del 93 e avevo comprato concessione e comprato il mio 1044, l'ho modulato per un po' di anni e poi l'ho mollato, per fortuna non ho gettato mai niente, poi mi è salito il pallino, mi mancava qualcosa ed era questo e mi sono riattaccato e continuerò fino alla fine, perché però comunque sinceramente non è la stessa cosa parlare, comunicare con questa parola o con internet, sono due cose completamente distinte, io questa la vedo molto più salutare, per il mio modo di vedere. Molto più familiare, molto più calda come cosa, più amichevole. Interamente d'accordo, come sì, come che siamo faccia a faccia. Alla fine, che a quanto pare non si usa più parlarci in faccia, io lo uso proprio perché lo vedo in questo modo qua. Ecco perché mi sarebbe piaciuto sensibilizzare, non so, con qualcosa di inventato da noi, giustamente i grandi fichi che ci sono in zona, per invogliare le persone a utilizzare questo apparato, capito? Lì. Sarebbe una bella cosa, ecco. Mi sarebbe piaciuto anche a me fine settimana modulare fino alle 7 del mattino, guarda, sarebbe stato una bella storia, mi sarebbe piaciuto la verità, però purtroppo adesso non si può perché non c'è più nessuno. Noi non sai cosa facevamo, il sabato ci sentivamo all'apparato, andiamo a pescare, via tutti in greffa a pescare, andiamo qua, andiamo in pizzeria, tutti in pizzeria in greffa, ci troviamo al quadrato, tutte le macchine ci piccole antenne al quadrato, giochetti a pallone, e via, ne abbiamo fatto. Sento solamente pipi pipi pipi, ma non sento la tua voce. No, come? Cioè, perlomeno, qua no. Ciao, Fred. Buonasera. Ma non so se qualche cretino si sta riparando. Buonasera anche a te. Io sto uscendo, sì. Ma io radio sto uscendo. Sì, a voglia. Stai uscendo tu, allora non c'è nessuno. Già lo credo, già, alla grande. Buona continuo in questo momento da parte mia, sempre se mi fate la cosa copiando caruca. Sì, ti avevo chiamato, ma non hai risposto. No, io sono dovuto scendere dalla macchina, perché c'era una paratura in mezzo alla carrera. Cava, cava. Va bene, là, sì, ci siamo copiando, non c'è problema. Buona fine settimana anche a te, dai. Ficcio, Giuseppe, quando tu ficcio, che mi sembra, Giuseppe, non Giuseppe Tornato, che ho già pensato adesso, Giuseppe Leoncino, avanti. Buonasera a tutti quanti, buonasera. Ah, ciao Leoncino, mi senti ciò che a te. Oggi. Ciao Bomboli. Buonasera Leoncino da parte di Giuseppe. Buonasera, mi hai sentito? Oh, ma chi è che sta fischiando con l'uomo? Tornato che dopo un lungo periodo si è fatto vivo. Dopo un lungo periodo di lottare. Cos'è? Non ho capito. Dopo un lungo periodo di lottare. Come mai Giuseppe? Così nelle e a momenti, quando ne voglia, quando hai altre mille cose da fare, ti fermi un attimino e ti rendi conto che sono già le 10 di notte, dici ma ora lo faremo qua, ma io ti seguo qui. Capita quando si rientra dal trabacco e c'è stanco, non hai voglia di fare niente, e allora giustamente 5 minuti di radio si ascolta e poi annanna. Cioè, dove sei? Sono alle porte di Sassari in questo momento. Sì, fanno uno scala, sei qua. Guarda, sto passando adesso vicino a... cosa ti posso dire? Dove c'è l'8A, Marceggio, dai. Ma ecco perché, sei molto molto forte qua. Ciao, dai, ti prendi Giuseppe. Ti sento anch'io bello potente, Giuseppe. E ormai ho messo le gomme su Sassari, ora. Sì, adesso sì. Comunque pensa che anch'io ti stai arrivando bene, sì. Penso di sì, però non sto guardando lo scooter, se no mi tiro da qualche parte, fai un passaggio. Stai attento, 2-3. Sì, Santiago Lope, Radio Radio 5. È un tanto che sono con l'altimino piccolo, eccolo. Vabbè. Oh Gianni. chiamato del Marcello Bambito, mi ma già, vabbè che già sei a usi, ma che mancherebbe fosse l'incoglierito, cioè ce la fai già. Ehi, già una volta due, comunque, complimenti. Andare. Oh, io... avanti Giuseppe. Buonasera, molto meglio di Napoli, mannaggia, ma come era corto che di qua in frequenza, Buonasera, mi rispetti come sempre? Anche te mi rispettimi, già sono giorno che non ti sento, già fino a entrare, ogni tanto. Mannaggia, come diciamo come dicevi, o quando troppo o quando niente. Come me in pratica, ogni tanto, o niente, o sempre entro. L'importante è entrare sempre, poi uscire, già c'è sempre tempo. Vabbè, quello sì. Non c'è problema, avanti Gianni. Tu di Pietra. Io scusa, sono in basso. Ma per nome? Avanti. Ho sentito la discussione, ma il segnale mi usciva anche la voce. Ci ho capito, Giuseppe, scusa. Ho sentito poco fa la discussione. Il segnale mi usciva anche la voce. Quindi... grazie, se sentivi anche a me. Positivo, positivo. E allora era lì che stavamo sulla portata probabilmente. Perché qua, non riesco a capirlo perché già mi arriva talmente forte che no, cioè come che ce l'abbia con la veloce. Capito. Sì, però di voce stavo uscendo, come cosa, come radio stavo uscendo. Non è una questione di importanza, secondo me. Io lo sentivo perfettamente qua, senza nessun problema. Allora c'era qualcuno che stava cercando di giocarsi, dai, come al solito. Perché guarda, se lo sento perfetto io, Giuseppe, un zighi che sta dritto un tutto, se no non l'avrei sentito perfetto io. In vicinanza, sì. Cappagrappa. Ehi, vabbè là. Magari anche problema suo dell'apparecchio, non è che... Avanti, Antone. Mollala sigaretta. Dai, lo vedi che stanno giocando? Adesso l'ho sentito sopra di Antonello, dai. Adesso quando tu dico che sono sicuro, me ne sono. Appagappa. Antonello ha detto, molla la sigaretta che fa male. Io ho messo di fumare, poi mi ha ripregato di nuovo. Poi mi ha detto, in quanto finirà, poi mi ha fatto di alcuni ti ricompro le sigarette. No. Normalmente ti sta una cosa la faccia, ma poi ce l'ha avuto qua. Abbiamo fatto, siamo riusciti. Non trovo le cose di malattia, per me mi è capitato l'ultima volta. Io poi mi alzo, devo fare quelle cose. C'è il giorno che proprio mi alzo, se oggi smetto, la volo, la volo, la volo. Sono sempre che di quel giorno, ma già me lo sento che sono fuori. Tra salute e soldi bruciati. Sì, altro che microfoni sarebbero usciti con le sigarette. Appaga, avanti. Sì, ma dimmi a Antonello perché siete riusciti a smettere, forse perché dite che c'era un altro palle che usciva insieme a voi. No, l'avevamo deciso, Giuseppe, comunque, l'avevamo deciso, la prima volta era andata a mucca, qualcuno non aveva mantenuto la promessa e poi ci abbiamo riprovato, ma comunque in effetti se io decido una cosa e quella è bua, non è che, però devo decidere io, se te ne impongo non ci fumate accanto. Antonello di Rossi, non è Gianluca Ramonti. Buonasera Gianluca. Buonasera Gianluca. Cappa, avanti Giuseppe per facilitare. No, io lo tiro fuori piccolo, piccolo, piccolo, buonasera alla batteria, se riesci a copiarmi, avanti Antonello Montemunio. Buonasera Gianluca, Antonello, ho sentito. Ciao Antonello, anche a te, scusami, no? Non l'ho ancora sentito. Ok, buonasera a tutti signori. Allora, di cosa si discute? Un po' di tutto, gli apparati, i soldi spesi, gli apparati, un po' di tutto. Sei un gruppo che sta preparando, hanno un po' freddo, si fa tutto il corso, un po' di faccia, uno va di passo di giù, la cosa fea è se mi ricapita un lupo che fa un'altra cosa, e se mi ricapita poco, sbaglia, però se c'è qualcosa di più, ma fa grappa e fatti, siamo nel massaggio, allora se lo rifermo di su che si poco che si viaggia, almeno quello, avanti Antonio, Antonio, io? Grazie Antonello, grappa grappa. Ebbè, se una cosa piace, piace. Ma guarda che quella tantina di erba, non è solamente dopo mangiato, o dopo il caffè, tutti gli altri attrezzi delle come così, neanche delle crudi era detta. E infatti, quando vai a pescare te ne fumi due pacchetti. Ah no, non c'è mille, no? Ma che cinque? Sì, io non ne fumo in mezzo, no, sono soldi risparmiati, compro una cosa che ti piace con questo. Ecco, riprendo io per salutarvi tutti circolarmente, io sono presso che arrivato, ci sto salutando. Ecco, io li carico. Ciao, ciao Giuseppe, buonanotte. Siamo gaffa, buonanotte. Buonanotte, alle ciao Giuseppe, buonanotte, si incuffi. Ma mi hai sentito Giuseppe quando sono entrato? O Gianni? Penso. Ma Giuseppe chi? Tornado. Ah, Tornado, sì sì, ok. Non ricordavo il nome attivo. Anche Giuseppe Leoncino, ce la stavo dimenticando. Avanti, Lions. Eia, ciao, non ho capito già, chi è entrato da Porotovese? Gianluca. Gianluca, se mi copi? Sì. Tutto bene? Aspetta che forse, sta modulando Gianni? No ragazzi. Ah, ciao Antonio, già ti ho sentito, un po' quel reme alto ciò. Da me c'è un po' il quel reme alto, non so se tu mi ascolti Antonio. Da Giuseppe Leoncino. Giuseppe, Leoncino, scusa Giuseppe, che ha chiuso, ha fatto quel RT? Ha chiuso Tornado, lì a Gazzio. Il canale è Gazzio adesso, ma Giuseppe, tutti e due già. Antonio, Leoncino e Tornado si chiamano Giuseppe, tutti e due, il nome nativo? Allora, Tornado si chiama Giuseppe. Antonio chi? Antonio invece Leoncino. Giuseppe si chiama Leoncino. E Tornado? Giuseppe Mattesi? Gappa. Ecco, quelli ti dicevo, si chiamano Giuseppe, il nominativo di battesimo è tutti e due Giuseppe, no? Vale. Giuseppe è tutti e due. E invece Gosu, D'accordo. Antonio Leoncino e Giuseppe Tornado, ok. Decido sempre Giuseppe, va bene. Avanti Antonello. Antonello, ma nominativo non ne hai tu. Io ce l'avevo, sì, Paperino. Perino, no, cambia ora. Cosa li possiamo mettere a Antonello? Qualcosa che... che fare con i mobili. Quindi io vedo qua, mi sarebbe piaciuto che mi avrebbe messo un bel nome, la verità. Capo, ma non i mobili. Non mi metti ancora la chiave. Pedino va bene, che è il suo. Quello è il tassello. Ma come è andata in finitella? Io all'epoca l'ho fatto aprire lo papirino. Papirino? Va bene, siamo di papirino. Paperino, paperino, non può essere altro. E come tu lo chiamati, Antone? No, no, no, potete mettere pure quel nome, io. Norton, ti piace Norton? Antone Norton, che sera? Rodione. È una mano, Rodione. Adesso parte qua di Arcobo, di fronte a... sulla strada di Archeggio, quella zona là, facciamo la bancale, capito? La burotunia dov'è? Non so cosa mi intende Antonello. Dov'è? Senti, a Gianluca che ti sta chiamando. Sì. Prova Antonello, ma è una burotunia dolce, eh. Sto regalando roba di propagazione di tutta strana. Cos'è? Non si copia bene. C'è un po' di rumori, guarda Antonello. Impressionante che casi non mi intendo in onca, io Trento, no, capito? Scusate in onca. Un dolore di capo faccio. Ma non è stato disegnare, ho fatto prima. Come Antonello? Non si è guardato la roba. Poi ho detto che hai aumentato il segnale. Ho dovuto aumentare un poco Antonelli. Mi ascolti adesso? Sì, però forse chiede, ma non lo chiedo se ha fatto qualcosa. Quanto ti sto arrivando presso a poco, giusto per saperlo? Una benissima alle 5 qua, medica per 10. Aspetta che c'è stata un colpo di propagazione che ti ha tappato qua. Quanto è che hai detto, lei? Ho detto appena alle 5, qui della parata medica più 10 il segnale. Ma che tu arrivi quasi allo stesso segnale, se mi stai arrivando qua. Avanti Cannari, e domani cosa ti tocca? Mazzane sera? Purtroppo sì. Che ti arriva più forte? Io o Antonello lì a Polo Torres? E già tu mi arrivi più forte, è normale, sei anche più vicino verso i miei confronti, lungo le mie coordinate giustamente. Antonello già arriva molto molto molto bene, comunque tutto aperto anche Antonello, e Ossi rimane in alto. C'è una lamella sulla zona interna, poi quando lo metto sul tetto vediamo un po' se accanto la situazione. La fallo subito. Perfetto, vedo che stazionare, mi dica quello di più né meno. Pagato. tagliarlo, perché se la devi mettere sul tetto ci voleva più lungo. Ma noi quello che abbiamo speso neanche per così tanto, quante abbiamo quel capo? Adesso non lo ricordo più. Mi sono una vita, non è compro più io, ce l'ho 7 anni, sopra il tetto. C'è quello RG, quello fine normale. Siamo già per 58 se non sbaglio, quello che non so 58 era. No, l'RG8. RG8 quello rosso. K58 quello fine. Torino, Torino della GBC là, via Carlo Felice, sai benissimo dov'è, questo è RG1000 comunque per rimanere più, con più materiale sia nella calza che anche all'interno del polo caldo, molto molto buono, ho comprato una ventina di metri, anche dopo ho preso altri metri per fare dei raccordini che mi servivano ed è fenomenale, ho fatto una discesa per mettere la radio nel magazzino già. Dove hai visto tu, è fenomenale quel capo. Ma non viene quello? Guarda, non viene, un euro mi sembra che non ci viene al metro. Un euro mi sembra che non viene al metro, Antonello. GBC lo sai dove è via Carlo Felice? Angolo Autoscuola dei Monti. Sì, sì, ce l'ho presente. Comunque, se compro la fine, quella di mamma è molto meglio di quelle che si comprano, diciamo, quella del sud, quindi molto più buono come capo. Buono, buono. Buono, sto dicendo, l'ho preso io una ventina di metri, più altre svariate metri per farmi dei lavoretti che mi servivano giù della corderia. Le spezzoni, là. E va benissimo. Gianlu, ma più grosso rimane? No, no, stesso diametro. 50 ohm. Almeno 100, però ci siamo accorti di una cosa con Sandro, che c'avevo anche un pezzo, cioè del cavo che mi ha dato a me, che era addirittura il pezzo di polo di dentro, non era con i filetti da rotolare, era uno solo, era quello il polo caldo, intiero nello stagno, il rame voglio dire. Ah, ho capito. C'era una ben grossa all'interno. È lo stesso che c'è Giuseppe Tornado, quello lì. Allora io qua, aspetta un attimino, l'EM, questo qui della LEM, se trovo proprio lo stesso capo, ti dico anche quant'è che c'è scritto. Se trovo qualche pezzettone qua con la scritta. Ma già dove cazzeghi su comunque. L'importanza di ricordarti che devi dire che sì, ma mi dia quello 50 ohm. Quello 50 ohm, ho capito. Vedenza 50 ohm, ricordatelo. E tu sì, a me mi sta bene le RG 1000, quelle lì, ma è 50 ohm? Capito? 50 ohm. E per te devi ricordare questa caratteristica e lui non ti dà quello che è poi stato tu. Come saldatura bene va il polo centrale. Però il polo centrale rimane intero, capito già? È rigido e dai, capito e dai. Ma dico, a saldare bene viene. Sì, sì, io ho stagnato tranquillamente già. Ho stagnato bene. E lo so, va bene. Magari anche migliore perché è più compatto. Ma non ti saprei dire la verità. Io ho visto che è saldato bene, tranquillamente, è tutto lì. Sì, va bene, vabbè, comunque con quel prezzo lì stai benissimo dentro, ecco, ci stai. Sì. Quello che voglio sapere io, il cavo morbido è o duro? Morbido già, morbido è. Come le regine di 58 già, né più né meno. Cioè io non ho notato nessuna differenza, mi pare precisa. Il diametro è lo stesso, perché entra nei PL piccoli, perché sennò dovresti, il PL l'altro è per le RG8, o il 213, che hanno stesso diametro. Con la KP1000. Con la KP1000. Ma è... La K1000 c'è, non la K1000. Come ti stavo dicendo, no, perché avendo questo cavo rigido al centro dovrebbe essere più rigido anche il filo. Buona sapere, sono notizie che uno apprende e poi mette da parte, quando le servono le cose, sa dove andare e cosa fare. Sì, quello sì, ma la fine il RG58, sto usando io, qual è la sua impedenza? Quanta ohm deve essere anche quello dell'RG213? Deve essere 50 ohm, ma tu lo sai la differenza anche a me tra quello fine e quello grosso? Quello fine e quello grosso? No, sinceramente no. Allora, quello fino, l'RG58 per intenderci, si usa sino a 25 metri di calata, ma non ti dà nessun problema. Dopo 25 metri è meglio usare quello più grosso, perché cosa succede? Che dopo 25 metri c'è dispersione di segnale, capito? Sino a 25 metri si può ancora usare. Poi c'è un'altra cosa che è più resistente al sole, si rovina di meno, ecco. Una dispersione, te l'ho detto, non una dispersione di segnale. C'è anche più carico, c'è anche più carico. Beh, quello si usa anche per attaccare i lineari più grossi, certo. Ma anche l'RG58, 1000 watt di regge tranquillamente, chi non le regge sono i PL. Stiamo facendo più PL di una volta. Facendo fare faccio ancora anche spettone, con i PL, il testo non è testo, mi pare che è battiniste. Io ce li ho lo stesso, in macchinice marrone. Ma che c'è Marro, bravo. Questo materiale al risparmio, se le dite, anche perché oramai la concorrenza è quella lì. Solo non fanno, solo una ditta si permette di fare qualche prodotto è tanto più superiore, però non ha mercato, non è concorrenziale, la gente anda a comparare sempre la cosa che di matto. Allora mi rompe dei ricatti la messa in gorgo. Allora mi rompe dei ricatti. Oggi fa una manovra. Dunque Gianlu. Non è solo il lineare che lo fa sulle scale. Se tu vai a saldare uno di quei PL, se ti trattino un po' di più si sciogli chissà cosa mi accadeva attorno. E che bravo, è quello che ti sto dicendo. Lo so, io ne ho ancora nuovi di quelli macchine di Tamarro, ma ne ho comprato un bel po'. Lì uno se deve mettere a parte, anche perché io volevo dire una cosa poco fa, mi stavo dimenticando. In casa di un CB, anche casa di un CB e come tante altre passioni, io penso che sia così, sono delle cose fondamentali che non devono... che non devono mancare mai, come PL, queste antenne, capo d'antenna, e anche via dicendo. Beh, io ho sempre un po' di ricambi, dai. Lampadine, per gli strumenti, tutte queste cose qua, ci sono sempre di ricambi. Quasi sempre, c'ho fusibili, c'ho cosa ti posso dire, tavretti di microfoni, spezzoni, di tutto. Questi qua non li vendono più. Non è negativo. No, non è negativo. Solo i vecchi cibi ce li hanno quelli lì. Non lo so la verità, io dovrei chiedere, e se se no si può fare anche qualche ricerca su internet. Io penso che o si telefona lì a tipo di Grino, cosa rompendo di cazzo, rompendo tu coso, sta rompendo la scatta. Io su internet li ho trovati assentati, lo sai, da sì. Sta rompendo le scatole questo coso. Ok. Bisogna telefonare, io Antonelli. Bisogna che prendere il telefonino, chiamare lì o a Negrini o a Giffone o Mascarle, insomma, perché sono queste rivendite, no? E chiedere, ma si trovano, sì, che dov'è te ne manda? Va di Lubricio. Sono d'accordo, due o tre passoni, cosa serve? Un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, così ci rientra anche nella spesa di spedizione. Perché non si può fare benissimo. E quelli che ho sentito più particolarità. Quali? Delle argentate. Cosa si dice argentate? Delle argentate esternamente? E sono tutte argentate. In argento, Gianluca, ci sono i piedi d'argento in vendita su internet. Oh, io d'argento faccio solo bracciare. È tutto bello, piede d'argento. Da voi si usi da prima, se lo vuole esterno lì su guai. Antone, dove metti i PL che sono all'esterno, meccanizzante, ben girato bene, lì con Sandro che hanno piazza l'antenna sopra, ci ha dato un rotolo mano, ha già meccanizzato tutto. Sì. Attenzione anche quella, però se tu fai questi accorgimenti qua, li metti in atto prima, ti risparmi tante cose. Non vi porto un altro vocalizzante di antenna lunga che va via già, che è la testa radiale. L'ha già smontato, ma come ti mai cagata l'antenna che va a massa, non riesci a cucchiare la dimensione della maniera. La smonto, mi la paro e non vera lì anche 3-4 litri di eva dentro. Lo so. Succede, se non li metti vulcanizzanti, io li ho messi vulcanizzanti e poi un bel po' di nastro di quello buono sopra, di modo che stringe bene il vulcanizzante e non fa più uscire. Però forse quello lì va a farsi benedire subito, Gianni. Vabbè, glielo metto anche io, dove sei sincero, glielo ho fatto anche io qualche giro, soprattutto dove ci sono all'inizio, dalla parte alta, non tanto la parte dove va a finire in basso, dalla parte alta praticamente dove prenderebbe l'acqua e ci volerebbe, lì glielo ho fatto in diretto. Ma il nastro adesivo si usa soprattutto per stringere bene il vulcanizzante attorno al tubo. Infatti la sua funzione è quella, poi col sole esce fuori, va via, normale, però ha già stretto quello che deve essere il suo lavoro, l'ha già fatto. Oh, io invece ho una vecchia antenna del vulcanizzante e dopo un po' di anni è stata la retroprimio, ho cambiato, lo trovo, però adesso si dà solamente dove c'è la nuova vulcanizzante. Invece quella interna che sono normale, che vedevo le tentative, è sempre per stretta, per quale motivo? Ho capito, tu gli ecco un attimo. Ti volevo dire, c'era una vecchia antenna e lei aveva tutto vulcanizzato, diciamo, nelle parti più critiche, lo aveva protetta. Dopo un po' di anni ho visto che mi stava dando problemi di ricezione e trasmissione, sono andato a smontare l'antenna, ho tolto la gomma vulcanizzante ed era dove avevo messo la gomma vulcanizzante c'erano tutte le parti, tutte ossidate. Sì, era completamente mangiate, proprio ossidate al massimo, infatti spezzavano con un piccolo tocco che si rompevano tutte. Allora, quest'altra roba che ho messo sullo scotch, ben tirato e basta. No, lo scotch il sole lo fa partire, ma che avesse qualche acido, qualche cosa, già lo... Ma... Guarda, sinceramente dove c'è, secondo me, io almeno quello che so io, sopra il vulcanizzante non ci va nulla, c'è già quello lì. Quello lì quando man mano che tu lo giri, che c'è quella pellicola che si sbuccia, quello lì fai tirando e girando, capito già? Deve elettricizzare. Il rosso è elastico. Se poi gli vuoi dare una scaldata con l'accendino, di modo che si sciolga bene, poi col pugno lo stringi. Anche col pono, i poni termici, quelli che ce n'è uno addirittura che sa che pure lo materiale va tipo la guaina ad aria e non a fuoco, ad aria, tipo la guaina che da Balibiscini, Paluca Tramo, cose così. Comunque io ho fatto un po' di accorgimenti, ma nella moto faccio sempre un problema, che praticamente la parte, la piastra dove c'è il piede femmina, che attacca il piede maschio, lì si stacca sempre, che sia lo jeans. Ma la piastrina che c'è lì, lo dici? Quella si allucisce sempre, sempre, sempre. Non c'è Cristo che... O si deve mettere qualche cosa, tipo, come si chiama, ringatta, sarà il ringatto. Potresti anche vulcanizzare con della colla a caldo, Gianni. Fatto bene però, Fatto bene. Senza quel discorso lì, prende lo giubbetto di massa, quello che usano le carrozzerie dei vetri o delle lamiere o il lamierato che usano per mettere una lamiera e l'altra per fare modo che non passa la macchina e lì su diventa lì su questo mi sei zenne non marcivo al punto di staccarlo perché è attaccato a ribattini quello lì attaccato a ribattini, sì ma io lo avevo che mi ammetto di aver fatto una cosa scusa Antonetti ti lascio un attimo in bianco mi sembra di aver maggiorato il foro e a me messo dei ribattini più grossi e mi pare in acciaio, mi pare invece di essere alluminio, non avevo portato, non mi ha messo il senso di uno, comunque mi pare che erano dei ribattini più pochi, più mani erano più molto più mani, però mi ricordo se avevo cambiato anche il tipo del materiale. E va basta farsi allargare i buchi e mettervi delle viti in acciaio, se è a posto. Esatto, come nelle fascette. Se tu vuoi che duri di più, magari le fascette saranno in dotazione, se non vuoi mettere quelle lì, tu compri delle fascette anche di quelle tipo di tubi, che servono per le manichette di gomma per non perdere, quelle che si avvitano, sia col cacciavite c'è anche la chiave esagonale, la chiave esagonale, quindi richiedere quella chiave quella lì. Ti stringi quelli lì, di acciaio, le metti quelli di acciaio, prendo bene, dopo le fai il giro del nastro, come del vulcanizzante con quei mattici della cartuccia sto dicendo io, è eternami. Ce lo so, a maglia si consumano le altre parti, sempre. Arrivati a quegli anni, Gianluca, e chi ha ragione, si consuma anche i radiali e cose, tutto quanto. Bisognerebbe stata modificata. Non farlo, se non ce l'ho fatta direttamente bene. Ma come? E allora non li vendi di più? E allora non li vendi di più? Se un'antenna di quasi 40 anni non la vendi di più già? Urudu. E cosa avete l'antenna a fare allora? Sapete così? Prendi e gli fai tu questi accorgimenti. Quando dura l'antenna, passa tutto il solo a parte non li fanno un raglio prima tramite un fulmine o una cosa. Esatto, tu ribadi gli accorgimenti e le vulcanizzi le parti dove sono gli innesti, è stato attivato 2 anni in più, 3 anni in più, è buono. Ma tu costa 120 euro, tra le fascette di cose ti prende anche 15-20 euro, tra le altre cose così, insomma, sempre tanto di guadagnato. Anche la roba che mi fa in chi va sta, usava, fino a volte che gli è diventare l'antenna, e poi li burgugavo già, il buono usavo. Già mi è costato un po' di più perché ci ho messo 9 tiranti 3 come si chiama 3 staff il tubo l'ho comprato da Brico perché era di domenica e non ne avevamo e abbiamo comprato la Brico e ci ho pagato un mese di nato. Aia, non so. C'è durato, no? Vai lì, prendi tipo da un pollice e mezzo, c'è il zingatto, se vuoi strappare, se vuoi strappare lo metti d'acciaio ed è eterno. Però ma è quello che ci viene le vigne frontale di questo l'hai visto? Ci sono da capire però che chiedono il travagliato allo streare roba così si sarà abbigliato. 500 euro sono il palo. Posso? Ma il TV magari ha bucato, magari ha bucato, e adesso non provo a mettere il televisore, mi dico mica. In TV era la stata roba e tante era di TV. Avanti Antonio. Chiama uno volendo, è possibile autocostruirsi un'antenna per la 27? Che ha voglia, si può costruire anche con un filo un'antenna. Ma giustamente non avrà le stesse capacità di quelle che abbiamo noi. Quindi attacchi una femmina di PL. Antenna direttiva. Antenna. Lipolo si chiama Lipolo. E dunque, comunque si può autocostruire, ma non ha le stesse caratteristiche di quelle che abbiamo noi. È molto, diciamo, rasoterra. No, è direzionale. Dove la punti fa. Ah ecco, comunque c'è alla fine una sorta di motorino per muovere il tuo attaccamento a casa. No, allora lì dovete mettere una direttiva che è montata tipo un'antenna, però direzionale, come dice Gianni, allora potresti muovere con un rotante, con un motorino, il dipolo è un tipo e forse può, non so, secondo le misure, ma dite una Zulu, io dipolo, il la 27, mi pare che 4 metri avrà, 4 metri e mica. Beh, alla fine noi, diciamo, sono per legge, si possono usare, sì, per questi apparati. Allora, passate a Rallye e ad voi, dopo una cucchiata di voi. Quale, secondo te, diciamo, sono molto meglio qualitativamente come antenne? Sono meno QRM. Ah, tutto lì la particolarità. Però, stando un po' locando, capito, dove punti l'antenna per il segnale? Non è a 360 gradi come le altre antenne. Ah, ho capito, tu appena senti un po' di segnale e poi te li direzioni direttamente, diciamo, a tuo piacimento, ho capito. Beh, alla fine, diciamo, non è così malvagia. Non è come dici tu, quella lì è la direttiva, ed è un'antenna e ferro, che ha diversi elementi, quella lì si chiama direttiva. Ti porto, quando ci troviamo ti porto a vedere una cosa, va? E va bene, guarda, sì, in questo momento io ho un catalogo della REM e c'è scritto antenne 144, posizione fissa, direttiva 9 elementi e direttiva 4 elementi. Ma 144 sono chiamate radioamatoriali. Questo, ecco, ho capito. E allora mi sa che in questo catalogo per la 27, vediamo un po', no, qui non ce n'è, non ne hanno. Ah sì, forse qua, eccole qua, l'MD4 e l'MD3, 4 elementi e 3 elementi. C'è pure per la 27. 27 elementi? No, per la 27 MHz, cioè per la CB. Infatti quello che ti ho letto io alla fine, qui mi fa vedere che ce n'è l'MD4 e l'MD3, uno è 4 elementi, l'altro ha 3 elementi. Diciamo poi la misura sono quello, o ci possono essere anche più elementi per la 27, oltre ai 4. Adesso di più, non lo so, le direttive non è che mi interessa molto, non ne ho mai avuto. Mi piace per esempio una sorta di motorino per farle girare, dai, ecco. Io non so, te lo compri direttamente da parte. La pietra è una cosa e l'altra, costa più, diciamo, piazzare questo tipo di antenne complete di rotore che non quelle che abbiamo noi. E senza ombra di dubbio. Quei tipi di antenne richiedono più materiale, più cose, più, diciamo, devono essere ancorate anche molto bene, se no se ti incasci va a venire danno. Ecco, comunque il GE qui a Sassi non c'è nessuno che utilizza per motorare. Sì, sì, ci sono. Sassi ci sono. C'è neanche uno che l'ha comprata da poco. E si è trovato bene, ne ci ha imparato con lui. Beh, si trovano bene quando, per dire, con chi parla abbia lo stesso tipo di antenna, se no il segnale è meglio verticale che orizzontale, dipende sempre se tu parli con un'altra persona che ha lo stesso tipo tu di antenna, allora sì, ricevi in diretta, purtroppo come se fosse sotto casa tua. Gianni? Yeah. Un attimo di bianco, scusami. Capito, Antonio. E infatti qui stavo leggendo altre particolarità, questa quattro elementi, potenza massima 1200 watt, dimmi lunghezza 4 metri, no, non c'è di lunghezza e larghezza, sì, lunghezza 4 metri, larghezza 62, 150 km orari e pesa, peso in confezione 5,500 kg. Comunque fatto sta, ha delle buone particolarità, io posso caricare massimo 500 watt e queste ne caricano 1200, non è poco. Appaga, quella che c'è 2000. Comunque, dove li metti 2000 fattori? Che ne usa? Infatti, quello già è vero, quello è pienamente d'accordo. Però diciamo c'è una molto più resistenza dalle caratteristiche che ci sono e puoi tirare via, valutare anche un po' il punto della situazione, vedere un po', potrebbe essere anche così un'altra alternativa di modulazione. Paga. Ma tu domani non lavori, Antonio? No, domani no, oggi ci hanno fatto fare il ponte, dunque domani sono a casa, dai, a fare un po' le faccende di casa, lasciare la famiglia, spesa, una cosa e l'altra, poi domenica più libera, loro a quell'ora si alzano tardi, la mia famiglia 10-11, dunque a voglia posso quindi tranquillamente avvicinarmi senza problemi. E anche qua è così, la stessa cosa, ne approfittando per dormire, ma io abituato a quell'ora lì, mi sveglio sempre a quell'ora e buco. E anch'io, io 6:30 in piedi, anche se non lavoro, 6:30, 6:20 massimo, dai. Me la godo di più la giornata, è molto più lunga, dai. Tranquillo, mentre dormo, lotto tranquillo per le due cose, in tranquillità. Tocca fare così alla fine. Pagappa. Sì, loro la vedono in modo diverso, io ma ne esco per dire domenica sono andato a Uzzo, mi sono fatto un po' di DX, ma non domenica, quando è la festa ieri. Ieri sì, sei salito tranquillo, presto presto, da solo, nessuno ti ha disturbato e bisogna fare così. Come si rimetti? Piccoli segreti di chi ha famiglia. Pagappa. Poi verso le 11 mi sono tornato a casa. È tranquillo, è pacifico, bello rilassato, pronto a tenere ridi la situazione, beh, meglio così, è anche giusto così. Sono entrato. Andiamo avanti, certo. Comunque. A ogni modo. Vedete che leggi una maniera con me. Papà, io vi saluto, dai, che è già tardi. Vado tutta annata, che domani lavoro. Lascio solo chi non lavora a parlare, dai. Andare, ciao Gianluca, ciao Antonello. Allora rimaniamo così alle 9:30, ci troviamo, eh. E va bene, a domenica allora. Faccio un salto. Kappa. Andate, ciao ciao Gianluca. Ciao, buonanotte Gianni, ci sentiremo domani. Ok. E tu Antonio domani cosa fai? Ponte? Ehi, buonanotte Gianni, sì, ponte, alla fin ponte, il lavoro della media al venerdì, dunque sempre domenica libero. E dunque la dedica alla famiglia. E tutto quanto alla fine, dai, faccio un giro la sera, fa la spesa, poi faccio un giro, Platamona, città mercato, dove capita, dai, tanto per passare un po' le ore, qui in paese non c'è niente. Beh certo, adesso le scarpe ci portiamo sulle balneari, costa, dai, cosa fuori, se non dico tanto, vabbè, Alghero, giustamente. Okay. l'acqua poi asciugata abbastanza in fretta, anche se era nuvoloso, c'era l'aria era calda, e adesso un pochettino c'è un po' di foschia, ma niente di particolare, no? Comunque è una bella passata. Dunque anche domani dovrebbe piovere, ha messo un bel po' di maltempo. No, io qui non ho visto le presentazioni, stasera c'era un pochettino così, però per domani non ho visto il collettivo. Si stanno sovrammodulando, ti sento molto segnale uguale ma molto bassa di voce. Molto bassa di voce? Sì, vabbè, non è che posso girare più tanto, ma allora vediamo un po' se ho inserito. Adesso così com'è? Sì, adesso va bene. Vediamo. Antonello. Antonello, hai messo tra il microfono a tavolo? Antonello?